che c'è sangue, c'è niente in te. Misero, misero, non sperà, madre non ti lagnar, non ti lagnar, il figlio regnerà, regnerà. Pazzi ben siete voi, se mi credete, se mi credete. No, no, non ti lanciar, no, no, non ti lanciar, no, no.